Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. C'è molta preoccupazione in Francia e in tutta Europa dopo l'attentato terroristico di questa mattina vicino a Lione, un'azienda di produzione di gas, questa volta il bersaglio ormai certo, nuovo attentato in Francia. Questa azienda è a Saint-Quentin, dipartimento di Isère, non lontano da Lione. A quanto sembra uno o forse due persone su un'auto sono entrate nel sito sventolando bandiere islamiche, forse dell'ISIS. L'auto poi è stata lanciata contro bombole di gas per provocare l'esplosione che è stata sentita intorno alle 9:50 di questa mattina. Ci sono stati diversi feriti. Raccapricciante il ritrovamento di un corpo decapitato a testa sulla recinzione dello stabilimento dell'azienda. Sulla testa incise scritte in arabo. Le misure di sicurezza sono subito state innalzate in tutta la regione, in tutta la Francia. Allerta a Parigi, sul posto è arrivato anche il ministro dell'interno, il presidente francese Hollande, informato dell'accaduta ha lasciato il Consiglio europeo di Bruxelles, rientra in questi minuti a Parigi. Prima di partire, in una conferenza stampa Hollande ha confermato l'arresto di una persona che si chiamerebbe Yassim Salih, una persona già nota ai servizi di sicurezza francesi. La polizia sarebbe alla ricerca di un secondo uomo. Naturalmente per tutto il pomeriggio, come abbiamo fatto fino ai primissimi minuti, vi informeremo su questo e anche su l'altro attentato in Tunisia, esattamente a Ramamet, in un resort. E ora il compromesso sui migranti al Consiglio europeo. L'Unione europea devra fare in sorte che 40.000 migranti saranno ridistribuiti in due anni negli altri paesi, dall'Italia alla Grecia. Questo l'accordo, così come lo spiega il presidente della Commissione Juncker, che lui stesso definisce modesto, frutto di un delicato equilibrio quantomeno lessicale. Dal testo che esce dal Consiglio europeo non c'è infatti quella parola obbligatorietà per i paesi, che era la posizione auspicata inizialmente dall'Italia. Ma che fosse una strada tutta in salita si era capito in serata, quando a cena c'era stata tensione perché i paesi dell'est volevano introdurre nel testo la parola volontaria. Da una parte anche la Merkel, François Hollande, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che avrebbe battuto i pugni sul tavolo. Se non siete d'accordo sui 40.000, non siete degni di chiamarvi Europa, avrebbe detto. Non fateci perdere tempo. Alla fine Renzi, però, è tornato a casa non a mani vuote. Questo è il punto importante, questa è la novità significativa, perché per la prima volta si mette in discussione il principio degli accordi di Dublino. Si è registrato anche uno scontro istituzionale ai massimi livelli, con da una parte il presidente della Commissione Juncker, dall'altra il presidente del Consiglio Tusk, che si è schierato con i paesi dell'est, tradendo la neutralità richiesta dal suo ruolo. Alla fine, intorno alle 2:30 del mattino, la fumata bianca. Nell'accordo è previsto anche che 20.000 rifugiati da fuori Europa vengano accolti in Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla Grecia. La riunione dei ministri delle finanze si è conclusa stanotte senza un accordo. Da quanto trapelato, alla Grecia sarebbe stato presentato una sorta di ultimatum: chiudere l'intesa domani e approvarla a livello parlamentare entro domenica, in modo da poter arrivare lunedì alla riapertura dei mercati, evitando uno scenario da preinsolvenza che potrebbe far precipitare la situazione. Nel frattempo la preannunciata riconvocazione di un Eurogruppo straordinario è stata ufficializzata per domani alle 17. Particolarmente problematica la questione dei ritiri di depositi dalle banche, che va avanti fin da quando Syriza ha vinto le elezioni, ma che negli ultimi giorni sembra diventata una emorragia. Appunto, l'accordo non è stato ancora raggiunto. Se non riuscirà a convincere l'Unione Europea a sbloccare altri aiuti, Atene con ogni probabilità non disporrà dei fondi per pagare il Fondo Monetario rate per 1,6 miliardi di euro totali il 30 di giugno. Sono le 14:05:54, è tutto per Europa 24. Vi ha parlato Daniele Biacchesi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.